chiuso nel mio mondo. La mia testa in viaggio e non si ferma. Mi sento libero. Sono ali che conducono il mio viaggio, rimangono con me dovunque vada, il resto è solo di passaggio. Chiusi nella mente non mi lasciano mai solo, se li porto in superficie loro prendono il volo. Sono ali che conducono il tuo viaggio, restano con te dovunque vada, il resto è ombra di un paesaggio. Chiusi nella mente non ti lasciano mai solo, se li porti in superficie loro prendono il volo. Sì, parte dal profondo, nasce da dentro e cresce. La mia testa a volte viaggia su frequenze che non prendi, si lascia trasportare da correnti che le danno i movimenti. Le naviga su flussi ad ampio raggio, vaga nel casino stando zitta e non riveli il suo passaggio. Decolla, ali aperte, prende posizione, lei decide luogo, tempo e direzione. Le piume la riparano dal vento e l'aria che trapassa le mie ossa danno più equilibrio, un brivido che sento. Mi siedo e godo lo spettacolo, collego i sogni, la mia fantasia e con estro supero ogni ostacolo. Mi perdo in mondo e situazioni che non trovo, con la testa tra le nubi ma coi piedi fissi al suolo. Chiuso in un traffico di lettere e di immagini, pensieri sono il fiume, di ricordi sono gli argini. Seguo strade che non vive ed ho bisogno di più cibo, perché ho fame e non ho pace nel mio nido. Sono ali che conducono il tuo viaggio, restano con te dovunque vada, il resto è ombra di un paesaggio. Chiusi nella mente non ti lasciano mai solo, se li porti in superficie loro prendono il volo. Sono ali che conducono il mio viaggio, rimangono con me dovunque vada, il resto è solo di passaggio. Chiusi nella mente non mi lasciano mai solo, se li porti in superficie loro prendono il volo. Sono in volo. Ti basta poco, rilassati. Credi sia un gioco, chiudi gli occhi e crea nella tua mente il vuoto. Concentrati, tranquillo ti farò da guida, e la tua mente sarà pronta solo quando schioccherò le dita. Sei pronto per viaggiare, tira un respiro a fondo, sciogli i nervi, lascia il corpo riposare. Rimetti a fuoco i tuoi ricordi, le emozioni belle, quelle brutte, quelle calme, quelle forti. Rivivi ogni episodio a fondo, riporti in superficie ogni discorso e riconvertilo in racconto. Ricordati ogni nome ed ogni volto, chi c'era prima e c'è tuttora, adesso merita un confronto. Analizza ogni pensiero, la fantasia ti rende più leggero e non ti lascia prigioniero. Davvero lo sai che stai volando, è una scena che rivedi tutti i giorni e guarda che non stai sognando. Sono ali che conducono il mio viaggio, rimangono con me dovunque vada, il resto è solo di passaggio. Chiusi nella mente non mi lasciano mai solo, se li porto in superficie loro prendono il volo. Sono ali che conducono il tuo viaggio, restano con te dovunque vada, il resto è ombra di un paesaggio. Chiusi nella mente non ti lasciano mai solo, se li porti in superficie loro prendono il volo. E adesso guarda in alto, cos'è che in fondo ci divide? Questo mondo lo si vive sotto il cielo e sull'asfalto. Ci unisce solo l'orizzonte, alla fine del cammino ci giriamo e l'ombra maschera le impronte. C'è chi lo sa e lo sente a pelle, c'è chi non lo conosce e cerca invano le risposte nelle stelle. La vera forza è nella mente, ma quanti tra di voi nella coscienza la controlla pienamente? È scritto dentro il nostro ego, il mio genio è pronto a uscire per stupirmi, basta solo che lo sfrego. Tre desideri da esaudire, la voglia di volare, non vedere e poi fuggire. Noi siamo uccelli con le gambe, in volo con i sogni, i sentimenti, i pensieri e le speranze. La libertà non ha confini, vogliamo non ci limiti, ma lo facciamo noi per primi. Sono ali che conducono il mio viaggio, rimangono con me dovunque vada, il resto è solo di passaggio. Chiusi nella mente non mi lasciano mai solo, se li porto in superficie loro prendono il volo. Sono ali che conducono il tuo viaggio, restano con te dovunque vada, il resto è ombra di un paesaggio. Chiusi nella mente non ti lasciano mai solo, se li porti in superficie loro prendono il volo. Sono ali che conducono il mio viaggio, rimangono con me dovunque vada, il resto è solo di passaggio. Chiusi nella mente non mi lasciano mai solo, se li porti in superficie loro prendono il volo. Sono ali che conducono il tuo viaggio, restano con te dovunque vada, il resto è ombra di un paesaggio. Chiusi nella mente non ti lasciano mai solo, se li porti in superficie loro prendono il volo. È tutto così semplice, leggero e palpabile come una piuma. Jolly.